si sveglia. La notte è lunga e vede tutto diverso. Tic toc, tic toc, nuovi orizzonti, nuove luci, nuove onde più forti. Rompi la gabbia, Maria è una guerriera, ma si chiassa. Ci prova a lottare i fantasmi, a lottare la piovra.